Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. In attesa che riparta il campionato, e tra due giorni ormai ci siamo, il nostro ministro degli esteri Fabio Tavelli si è messo in testa un'idea meravigliosa, che sarebbe niente meno la riforma dei calendari internazionali. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, grazie, c'è una cosa impegnativa. Sì, no, senti, che la breve prolusione mia è questa, per spiegare agli ascoltatori com'è nata. Se ne parla da anni e si cerca una soluzione che forse è impossibile, perché deve tener conto, poi tu mi correggerai se sbaglio, di mondiali ed europei negli anni pari, ma anche di Coppe d'Africa nei dispari, di Coppe America, senza contare poi che anche in Europa ci sono i campionati sfalsati, perché per esempio adesso, non so, cito a caso la Russia, ma anche la Svizzera, che è tanto più vicina, tutto è fermo per 3 mesi, nella maggior parte dei casi, come in Italia, lo stop riguarda l'estate. Ora, in tutto questo guazzabuglio, che è solo delineato da questi pochi dati, ma è in realtà enorme, in tutto questo guazzabuglio, a rimetterci chi sono? Sono non solo i club, che a ogni appuntamento della nazionale li vivono come delle sinecure e come una tortura. Secondo me gli spettatori, che continuano a passare sul più bello che sia calore al campionato, c'è il raffreddamento perché arriva la nazionale magari per un amichevole oppure magari per partite di qualificazione contro le Faroe. Ma a rimetterci però più di tutti sono le nazionali stessi, i cui appuntamenti ufficiali, e appunto lasciamo addirittura perdere amichevoli, vengono sempre vissuti molto male. Ora, tu, ministro degli esteri, mi hai illustrato nei giorni scorsi un'idea che io condivido in pieno, che non è del tutto inedita, ma mi sembra sempre più indifferibile. Allora, microfono aperto. Allora, l'idea non è inedita e secondo me se ne può parlare. Faccio un salto e arrivo subito alla fine. Cioè, il mese di giugno deve diventare il mese delle nazionali. Cioè, il mese di giugno è il mese finale della maggior parte dei grandi campionati europei, ma non solo dei grandi, della maggior parte dei campionati europei, quando parlo di Serie A, Bundesliga, Liga, certo, e Premier League. È un mese che tradizionalmente vede le persone, i tifosi abituati a vedere nazionale, perché tutte le fasi finali dei mondiali, certo, degli europei solitamente si giocano in quel mese. E quindi potrebbe diventare davvero il punto finale della stagione, con un vantaggio, cioè allungherebbe di un mese la stagione, e quindi questo potrebbe anche andar bene a sponsor, televisioni e quant'altro, e oltretutto riuscirebbe a, come dire, non interrompere mai i campionati, perché una delle premesse di questo ragionamento è il fastidio, che ormai è evidente, ma non solo da parte delle squadre, delle società, nel dover cedere i giocatori alle squadre nazionali, ma anche dei tifosi, dei telespettatori, dei tifosi che vanno allo stadio, nel vedere campionati importanti e molto seguiti, come tutti quelli europei dei quali noi di solito parliamo, interrotti per delle partite di nessunissimo interesse. È chiaro che il movimento è diventato sempre più ampio con la polverizzazione degli stati, quindi ovviamente non c'è più la Jugoslavia, non c'è più l'Unione Sovietica, però... Cioè, che cosa abbia a che fare il movimento delle isole Faroe, certo, con il movimento del campionato italiano, la gente non sfugge, lo capisce più. Sfugge. Allora, in questo quadro, se non capisco male, si tratterebbe di uniformare le partenze e gli arrivi dei campionati. Cosa già non semplicissima, perché per esempio la Francia parte ai primissimi di luglio e arriva ai primissimi di aprile, l'Italia parte a fine agosto ormai da qualche anno, ma prima partiva anche più tardi, e la Spagna pure, e finisce a maggio. Si tratterebbe di, l'ideale sarebbe certo ridurre i campionati a 18, e già questa sarebbe ma una buona... Gigi, perdonami, questa è la primissima premessa, le premesse sono due o tre. Allora, la primissima è di ordine filosofico, e cioè che i campionati per squadre di club e i tornei per le nazionali sono diventati una cosa diversa. Bravo. Cioè, anche se gli attori sono i medesimi, la verità è che il film è completamente diverso. Posto questo, il ragionamento numero due è quante squadre devono essere formate le leghe, chiamiamole leghe, perché ormai dovremmo dividere davvero lega da federazione, certo, e questo fa parte della premessa, cioè federazione fa una cosa e le leghe fanno un'altra. Di quante squadre? Allora, secondo me 16, possiamo arrivare a 18, però bisognerebbe riuscire ad arrivare a 16. Molto difficile, quasi impossibile, però bisognerebbe riuscire, siccome ci si è già stati a 16, provarci. Non è impossibile. Provarci. E quindi una riforma complessiva dei campionati che venga a piovere dall'alto è già di per sé è complicata, però se non piove dall'alto ho la sensazione che da nessun'altra parte possa arrivare. Quindi campionati a 16/18 squadre, partenza uguale, tenendo presente due o tre cose che sono le peculiarità, cioè in Spagna e soprattutto nel sud dell'Italia in agosto fa molto caldo e anche i primi di settembre. In Inghilterra, anche per motivi climatici, preferiscono iniziare i primi di agosto, in Francia la stessa cosa, gli inglesi preferiscono giocare sotto Natale, però abbiamo visto anche che gli spagnoli quest'anno hanno deciso di fare una partita il primo dell'anno, il 2 di gennaio, certo. Quindi ragionandoci un po' ci si può arrivare. Se si riuscisse a partire tutti insieme con lo stesso numero di squadre, poi all'interno del calendario, se gli inglesi vogliono proprio giocare il 26 di dicembre e gli italiani no, ci sarà un turno infrasettimanale. Certo, questo poi diventa un problema delle singole leghe, no? per seguire, esatto, il ragionamento. Però tutto deve essere finalizzato a che cosa? Che a fine aprile, per esempio, al massimo, o la prima domenica di maggio, si sbaraccano i campionati, tutti. Finiscono anche le coppe, ovviamente devono finire anche Champions League ed Europa League. Certo, devono finire un pochino prima anche quelle, e diciamo che almeno la seconda metà di maggio e giugno sono finalmente l'appuntamento per le nazionali. Io credo esatto. Ora, la tua proposta, secondo me, ha un doppio fascino. Quello di, cioè una doppia utilità pratica, che è razionalizzare sia l'attività dei campionati, quindi dei club, delle leghe, chiamiamole così, che è quella della nazionale, ma soprattutto di restituire fascino in maggior misura alle nazionali, ma in parte anche ai club, perché questa continua altalena, questo vedere un giocatore, insomma, adesso ne dico una molto banale, però a novembre Chiellini a Firenze in maglia azzurra è comunque un giocatore della Juve a tutti gli effetti. Può darsi che ai primi di giugno lo sia meno, poi forse certo. Firenze non è l'esempio più adatto perché Chiellini è un ex della Fiorentina e a Firenze c'è quel po' di tribalità, insomma, che no? In queste cose va bene, però il concetto mi sembra abbastanza chiaro, anzi così forse è ancora più forte. Sì, così è un concetto corretto, anche perché renderebbe le partite di qualificazione, che ripeto, ma sono dati abbastanza facili, intanto che le nazionali devono andarle a giocare spesso, devo dire soprattutto quella italiana, in campi, nessuno si offenda, un po' periferici, perché altrimenti San Siro, l'Olimpico, il San Paolo certo. non li riempi. E poi intanto giochi in fine primavera, inizio estate, che da un punto di vista climatico ti invoglia anche un po' di più andarle a vedere queste partite. Ci sarebbe un altro tipo di problema, cioè i gruppi, faccio l'esempio di Euro 2012, i gruppi sono formati da 6 squadre, quindi vuol dire fare 10 partite, quindi vuol dire 2 anni. Allora, si risolve in due modi. La prima è evitare andata e ritorno. A questo punto si fa partita secca e punto. E la seconda è ridurre il numero di nazionali di paesi che vengono definiti da anni emergenti ma non emergono mai. Cioè, ci rassegniamo, anche qui tra virgolette, a prendere atto che il movimento di San Marino, di Andorra, delle Faroe, di questi paesi affascinanti ma che alla fine non si qualificano mai, è in realtà un intralcio al calendario, ma che se facessero invece loro una fase, diciamo così, una fase di prequalificazione, intanto gli darebbe un minimo di soddisfazione in più, perché qualche partita la vincerebbero. Sì. Io sono abbastanza convinto del fatto che continuare a perdere non aiuti granché, cioè no, continuare a prenderle non ti migliora tantissimo. Questo è vero, però mi fa notare Filippo da Genova, con un messaggio appena arrivato, che sono voti, Certo. Lui scrive testualmente: sono tutti voti per Blatter o per Platini, ma magari saranno anche contro questi voti, però è anche vero che è su questo poi che si giocano le partite, purtroppo, no? Sto parlando delle partite politiche. Questo è verissimo, infatti queste sono, diciamo, situazioni fuori sacco, dalle quali ovviamente dobbiamo tenere conto, ma che nel nostro ragionamento, che è puramente teorico, dobbiamo far finta che non esistano, perché tentiamo di portare una soluzione che sia funzionale, certo, sia alle leghe, sia alle nazionali, sia ai tifosi, e lasciamo fuori la politica sportiva. Soluzione fuori sacco non è male, Fabio. Devo interromperti solo per non dimenticare a che punto siamo arrivati, perché è questione di un minuto o due, gli aggiornamenti del traffico. Torniamo in compagnia del ministro degli esteri. Stiamo parlando di riforme possibili, potenziali, avveniristiche magari, dei calendari del calcio internazionale. Tieni anche conto che, dicevi Fabio? No, tieni anche conto che le qualificazioni sia ai mondiali sia agli europei si spalmano su due anni. Io trovo che sia anche troppo, cioè nel senso che le partite che si sono disputate all'inizio di questa, diciamo in autunno, quelle disputate in settembre e in ottobre, poi verranno ridisputate a marzo, ridisputate a settembre-ottobre di nuovo e poi certo. A marzo ancora del 2012. Mi sembra un tour un po' troppo lungo anche per esprimere poi dei risultati più seri. E poi alla fine è rarissimo che le grandi nazionali non partecipino alle fasi finali, quindi le piccole federazioni che comunque portano voti e quant'altro, e sono d'accordo con l'osservazione di Filippo da Genova, ma che immagino ti staranno facendo anche molti altri. Sì, certo. Però dobbiamo anche considerare che se invece noi facessimo una prima parte che fosse una sorta di playoff o comunque di girone di qualificazione e che desse a queste la soddisfazione anche di poter puntare a un girone di qualificazione superiore, io credo che potremmo anche aiutare queste piccole federazioni a diventare un po' più grandi. Scordiamoci però di vedere le Faroe piuttosto che San Marino a una fase finale di un europeo o a una fase finale di un mondiale. Certo. Perché non è veramente pensabile. Allora, se noi continuiamo a pensare che il movimento che esprimono queste federazioni debba essere considerato alla pari del movimento che esprimono la Premier League, la Liga e il campionato di Serie A, facciamo un piccolo esempio di socialismo che non ha veramente minimamente senso, ma non ha senso soprattutto per i piccoli. Per i piccoli perché non imparano nulla e non crescono mai. Sono rarissimi i casi di nazionali che se la giocano fino alla fine. Ad esempio c'è Cipro, che è diventata una nazionale decisamente più dignitosa, ma ci ha messo 20 anni. Sì. Io sinceramente altri 20 anni così faccio abbastanza fatica a immaginarli. E poi non dimentichiamoci quanto bello potrebbe essere questo mese di giugno con 5 partite della nazionale contro 5 avversarie di un certo rango per poterle promuovere poi un'edizione del campionato europei. Questo darebbe intanto il fatto che si potrebbe fare l'estate prima, sarebbe una sorta di Confederations Cup, mettiamola così, tanto per dare un'idea. E potrebbe diventare molto appetibile per gli sponsor, molto interessante per i tifosi e per il pubblico che invece le partite le vede da casa e generare forse anche un affetto, un amore così per la nazionale che per tanti punti di vista, diluito in 2 anni di qualificazione, non può non disperdersi. Giovanni Rast in compenso ci dà degli utopisti, tu cure, lo scrive a tutto maiuscolo e credo che abbia abbastanza ragione. Certo. Ragione anche a usare le maiuscole. Certo, quello che temo di più sono i messaggi che prima o poi cominceranno ad arrivare da San Marino. Si vede che in questo momento c'è il segnale in quella zona un pochino ballerino. Però ecco, sei arrivato al punto focale, secondo me, che è la valorizzazione per le nazionali, perché poi i club hanno mille e quanti ne vogliono modi per promuoversi, per giostrarsela, insomma hanno un sacco di mesi all'anno in cui, ma le nazionali così come oggi sono veramente vissuti come, non dico delle rotture, ma quasi, dai club sicuro, ma alla fine anche del pubblico, perché se il Napoli ha indovinato 3 vittorie consecutive, faccio a caso, oppure è successo alla Lazio, ma anche alle grandi tradizionali, l'idea che c'è una sosta per giocare contro l'Ucraina e contro, diciamo, un'altra per non arrivare sempre alle stesse, la Bielorussia. Bravissimo, e la Bielorussia, e magari sono partite importanti perché devi fare 6 punti o 4, quanti ne servono per qualificare, cioè, i club diventano matti. Ma questa è un'ottica in cui in fondo ci poniamo sempre. Mettiamoci un attimo nell'ottica di Prandelli, e questo mi ricordo, anche se ormai sono passate un paio di settimane, mi ricordo le discussioni feroci accanite che Berzot faceva su questo argomento quando toccava lui essere CT. Ma un CT ha bisogno di avere un po' di ritiro, un po' di raduno, ha bisogno di poter fare un amichevole ogni tanto per testare i giocatori, ha bisogno di poter preparare queste partite con tutta un'altra vigilia, con tutto un altro tempo davanti a sé. Se noi dessimo un mese e mezzo, per esempio, l'anno alle nazionali, loro se lo programmano come gli pare, ma secondo me sarebbe interesse dei giocatori, dei responsabili nazionali, delle federazioni e del pubblico. Io credo che l'interesse sia di tutti. Aggiungo solo due o tre cose. Intanto che con la legge Bosman moltissime squadre vengono anche qui molto tra virgolette colpite dall'esodo dei giocatori, perché mentre una volta erano soltanto le prime 3-4 in classifica a perdere i giocatori per le nazionali, adesso sono tutte, cioè l'ultima in classifica del campionato di Serie A e così come la prima perdono un sacco di giocatori, perché ci sono giocatori di nazionalità le più strane, le più esotiche, che a un certo punto la domenica sera, quando non è sabato sera, prendono, partono e l'allenatore li rivede, certo, nella migliore delle ipotesi il venerdì della settimana con successiva. Li rivede con comodo e magari se li ritrova infortunati. Ora, che alle società questo non piaccia, ho già capito, e adesso si fanno anche risarcire. Ma non è solo un fatto di averli sani, è anche di averli mentalmente liberi e non stanchi di mille viaggi, perché io mi ricordo perfettamente quando Adriano Galliani qualche anno fa disse: il Milan non prenderà mai più i brasiliani perché tornano dalle trasferte intercontinentali sfasati. Poi certo, quando vedi Pato magari lo prendi, o quando vedi Kakà magari lo prendi, però poi ogni tanto te li trovi sfasati davvero. Però te li trovi sfasati davvero. Sfusati spesso, esatto. Quando non te li trovi infortunati. Certo. Ora, siccome il fastidio è duplice, perché l'allenatore, sia quando deve programmare un amichevole, quando deve programmare l'amichevole, intanto non chiama quelli più forti. E quindi ti capita di vedere amichevoli dove giocano titolari, giocatori, non lo so, mi viene in mente Diamanti nell'ultima partita amichevole della nazionale. Detto da un bresciano può passare, ma ecco, anche se no, adesso mi aspetto i messaggi da Brescia. No, ma l'ho detto apposta. L'hai detto apposta da bresciano, bene. Un giocatore che evidentemente non è una tua primissima scelta. Detto questo, siccome il commissario tecnico già non può pescare quelli forti, deve fare quelli forti, dico quelli di suo massimo interesse. Sì, certo, il suo. Non riesce a fare delle convocazioni quindi mirate. Deve sempre andare a chiedere, perché magari la società non vuole darglielo, deve vedere in che rapporti è con l'allenatore. C'è tutta una serie di bizantinismi che con questa nostra formula verrebbero evitati. E quindi andremo oltretutto, gli allenatori delle nazionali, quando hanno la domenica notte la truppa diciamo a Coverciano per giocare una partita il mercoledì, di allenamento hanno soltanto il lunedì e un pezzo del martedì, dipende sempre dove giochi, perché se giochi in Russia devi mettere in conto anche il viaggio, e quindi a che cosa ti servono poi quei due allenamenti? Veramente questo mi è davvero misterioso. Certo. Prenditi 3 settimane a maggio e arriva fino ai primi di giugno e poi gioca e fai un torneo di qualificazione, a quel punto il valore vero della nazionale ce l'hai. E non è un valore di giocatori presi quasi in prestito e di malavoglia dalle società e magari con la testa nel campionato, perché non dimentichiamoci questo, tante volte i giocatori arrivano in nazionale sapendo che magari il sabato o la domenica c'è Milan-Juve o c'è Inter-Roma, cioè ci sono partite pesanti, o magari sanno che il mercoledì successivo giocherà una partita decisiva di Champions League. Pretendere da loro che si concentrino al 100% e che diano il 100% in Italia-Bielorussia quando il sabato successivo devono giocare Inter-Milan o la settimana dopo, non lo so, Roma-Real Madrid, io lo trovo francamente difficile. Sono d'accordo con te. Capisco anche qualche magra della nazionale, proprio perché i calciatori non possono essere dei treni locali che fanno tutte le fermate. Mi dispiace che non sia firmato questo messaggio, ma lo leggo lo stesso, perché ti candida a un ruolo in Lega o in Federazione e per la passione, no, evidentemente, che ci hai messo in questo intervento. Prova a rispondere a questa domanda: perché secondo te un lancio quello che ho sotto mano è un lancio d'agenzia, ma in Germania ha fatto assai più rumore, è stato completamente ignorato dalla, ripeto, tolto un minimo eco in Germania, dalla stampa mondiale? Il presidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, cioè non l'ultimo della pista, ha minacciato di portare in tribunale la FIFA se non ci sarà un accordo sugli impegni delle nazionali. Ora è chiaro che tutto questo viene da Robben, dalle polemiche eccetera, ma l'ex attaccante interista ha proposto di dedicare 8 mesi l'anno esclusivamente alle competizioni europee, lasciando liberi 2 mesi per le gare nazionali. Allora i casi sono due: o ti sei messo d'accordo con Rummenigge e sinceramente non lo sapevo, oppure, ma è qua sotto gli occhi questa nota d'agenzia, che è datata 22 novembre. Perché una proposta così saggia, così intelligente e così di respiro e di programmazione a parer tuo è stata completamente ignorata a vantaggio delle peggio minchiate sul calciomercato improbabile, per dirne una. Guarda, la prima parte è che aver fatto un pensiero simile a quello di Kalle Rummenigge mi riempie davvero d'orgoglio. La seconda è che probabilmente dobbiamo tornare a una ventina di minuti fa quando hai letto quell'SMS da Genova, credo. Certo. Perché tendenzialmente sia la FIFA, anzi senza tendenzialmente, la FIFA e l'UEFA sono dei potentati e il grande Aldo Giordani li chiamava i votaioli, cioè sono quelli che portano voti. Ecco, certo. I votaioli sono quelli che poi contribuiscono ad eleggere tutti i presidenti, dal più tirannico al più illuminato, ma che comunque anche il più illuminato dei presidenti, anche il più generoso, geniale, onesto, sì, alla fine è un politico, sì, e quindi come tale deve comportarsi. Sì, ma magari ci fa scoprire le gioie di un mondiale in Qatar, però bisogna mettere in conto, no, queste debolezze che può avere poi in fondo, no? Sì, a volte la carne è davvero debole. Fabio, noi, secondo noi, tu per la verità, ma insomma insieme questo sasso l'abbiamo bucciato. Io credo che poi nelle prossime settimane sarebbe gradito ogni tanto provare a raccogliere un parere, magari lo facciamo, potremmo darci l'impegno di farlo alternativamente, magari un po' da Sky, no? Attraverso come no, come no. E un po' da Radio 24, e magari poi ci scambiamo degli interlocutori, giusto per vedere se da qui, da questa idea e da un certo Kalle Rummenigge può nascere qualcosa di più concreto. Guarda, l'importante è che non la chiamino la Garanzini Tavelli, ma la chiamino la Rummenigge, eventualmente, la Rummenigge, se certo, dovesse passare. Perché sennò siamo rovinati in partenza. Sì, esatto. Grazie, esatto. Signor Ministro. Grazie a voi, buona giornata. Buon anno ancora e a presto. Grazie, auguri. Ciao. È il momento di sentire come stanno andando i mercati. Su questa idea di una possibile riforma di campionati, a cui la FIFA, l'UEFA, le varie federazioni stanno pensando da un sacco di anni, ma in realtà senza mai riuscire a risolvere il nodo, perché il nodo riguarda i sudamericani, riguarda le coppe d'Africa, riguarda un sacco di manifestazioni collaterali, al di là di mondiali europei, che condizionano i calendari e i campionati, insomma il succo, l'idea, la sintesi sarebbe: cerchiamo tutti insieme di trovare un modo grazie al quale i campionati, cioè le leghe e le nazionali, la smettono di pestarsi i piedi, in altre parole, no? E quindi l'allenatore, i commissari tecnici possono avere un mese e mezzo o due per fare il loro lavoro senza interruzioni, e nello stesso tempo, e a maggior ragione, altrettanto possono fare gli allenatori di club, senza avere ogni tanto la sosta per le nazionali che spezza i ritmi, ti restituisce i giocatori infortunati, eccetera, eccetera, eccetera. Il parere che vorrei sentire adesso è quello autorevole di un vecchio amico come Walter Novellino. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti voi. Cosa ne dici di un'idea di questo genere, di una piccola rivoluzione come questa? Ma no, io direi che è un'ottima idea, perché almeno l'allenatore ha la possibilità, almeno il selezionatore della nazionale ha la possibilità di mettere le sue idee, no? Avere un mese o due mesi per dedicarsi completamente alla nazionale è importante, certo. Li vede tutti i giorni, li prepara il modulo come piace a lui, eccetera eccetera, perché durante la fase di campionato un giorno non ha senso, secondo il mio punto di vista. Serve soltanto per ritrovarsi, trovare, vedere un attimino che condizioni sono. Secondo il mio punto di vista è un'ottima idea. Poi gli allenatori hanno a disposizione i giocatori per circa 8 mesi, almeno non si trova più la scusa che la nazionale gli ha dati rotti o stanchi, o certo, eccetera eccetera. Che io credo non siano degli alibi, no Walter? Perché in effetti qualche volta succede e lo possiamo constatare tutti. Qualche altra volta magari viene preso un po', no? Viene un po' caricato l'effetto che la nazionale ha avuto sul club, oppure l'effetto che il club ha avuto sulla nazionale. Poi si arriva alle grane come quella di Robben, alle denunce alla FIFA, Nesta anni fa, eccetera. Io credo che se si dividono per bene i calendari, come si è detto, più o meno come si è detto prima, anche da un punto di vista assicurativo, secondo me sarebbe molto più semplice, no? Sì, sono d'accordo. Non c'è più un aiuto va alla nazionale, aiuto va anche alle società di club, no? Che ha la possibilità di avere il giocatore, di di potersi anche sotto l'aspetto giuridico, come sia successo il fatto di Robben, essere protetta anche la nazionale. Io credo che è un'ottima idea, non so se poi le cosiddette leghe accetteranno un... Sai anche tu che poi le ottime idee sono quelle sulla carta, no? Poi bisogna tradurle. Esatto, quello bisogna tradurli in fatti dopo. Bravo, ma soprattutto in moneta, sai, prima ancora che in fatti. Cioè bisogna vedere, perché se tutti hanno di questo da guadagnarne da tanti punti di vista, no? Cioè sia in moneta sonante che in spazi più, come dire, più agibili, che più serenità e che più cose, bene, se per caso c'è da rimetterci anche solo una lira o diritti televisivi, dura. È dura perché ci sono i diritti televisivi. Certo. Siamo costretti a vedere le partite anche a mezzogiorno e mezzo, che poi onestamente sono partite che c'è poca gente, almeno l'ultima partita che ho vista, sempre la Lazio, onestamente... Avvilente, eh? Io non lo volevo dire. No, ma hai ragione, Walter, è avvilente. No, troppo brutto. Ma questo però succede quando si fa una partita amichevole, ufficiale nazionale contro una nazionale piccola, lo vedi anche nelle partite della nazionale. Sì, certo, poi lì invitano i bambini, i ragazzini, eccetera, per riempire un po' i vuoti di cose, ma ormai noi siamo arrivati... che ogni volta che un giocatore fa un rinvio un po' campanile e che si alza l'inquadratura è un disastro, no? Perché... È preoccupante. È vero. Scusami, Gigi, se ti ho interrotto. No. È preoccupante perché io sto notando, i campionati tedeschi, i campionati inglesi hanno un ritmo diverso dal nostro, i giocatori, non so come mai. Però ce l'hanno. Non lo so. E poi ci hanno gli spettatori, questo è drammatico. Io vorrei che i presidenti, un attimo di riflessione, a capire come mai, sia i presidenti che gli allenatori, tutti, come mai in Italia sta succedendo un fatto simile, che spettatori non ce ne sono più, assolutamente, perché uno ha gli occhi, come hai detto tu, è deprimente vedere la partita di domenica con c'è nessuno. D'accordo. Sono d'accordissimo. Questo ci ha spostati leggermente rispetto al tema. No, assolutamente. No, ma è un altro aspetto di uno stesso problema. E cioè che al calcio bisogna metterci mano, secondo me, perché non si può andare avanti negli anni, nei decenni, con la società che cambia in continuazione, che evolve, con dei piccoli aggiustamenti che in realtà non risolvono nulla. Sì. E bisogna prendere atto di certe situazioni, quindi hai fatto benissimo invece ad introdurre questo. No, io volevo introdurlo, ma siamo andati su una via diversa, scusami, dai. Il punto è questo, che in realtà il calcio va un po' tutto ripensato, e quindi questa riforma di cui si potrebbe parlare, e che ripeto, ogni tanto la FIFA, l'UEFA eccetera la mettono sul tappeto, ma in realtà poi non riesce a decollare, evidentemente per altri interessi. Torniamo invece a questo campionato nostrano che ha così poco appeal, no? Io lo trovo ancora più singolare quest'anno il fatto di questo calo di pubblico per questa ragione, perché c'è equilibrio. Cioè io l'avrei capito di più negli anni scorsi, quando prima la Juventus, dopo l'Inter partivano, salutavano e giocai per il secondo posto, insomma, che non era il massimo, no, dell'Inter. Quest'anno mi pare che, salvo errori, ma 5-6 squadre il campionato in teoria almeno lo possono vincere, e quindi è ancora più grave che la gente non ci vada, secondo me. Sì, sono d'accordo. Al di là, Gigi, che io ho notato in questi ultimi anni che qualità ce n'è ben poca. Sì. Se noi notiamo che Ibrahimovic e lo stesso Kadic non è che erano dei così nei campionati, erano dei buoni giocatori, in Italia si diventano dei fenomeni, insomma. Sì. Quindi tu... vuol dire che non c'è tanto, c'è poca qualità. Quella poca qualità è chiaro che si eleva un attimino rispetto agli altri giocatori. Noi notiamo che squadre come la Juventus, come il Milan, che il Milan è una squadra che è Ibrahimovic dipendente, che poi, come no, poi qualcuno può pensare diversamente, ma io al di là che Ibrahimovic è un giocatore straordinario, ecco, cioè, secondo il mio punto di vista in Italia dobbiamo un attimino rivedere un attimino, perché giocatori di qualità ce n'è poco, insomma, e gioco ce n'è poco. Mm. Mi pare un dato di fatto. E questo si riflette evidentemente sul pubblico, no? Perché esatto. Tu prima hai citato proprio il caso della Lazio. Secondo me è un caso limite, perché il Napoli da anni non sognava come adesso sta sognando. Poi insomma, giusto o sbagliato, cioè che poi questi sogni si realizzano o meno è un altro discorso. Però intanto è lecito che il Napoli sogni. Però il Napoli ha riportato allo stadio le masse di una volta. Che la Lazio invece, che dopo tanti anni e dopo il disastro dell'anno scorso, sia seguita da così poca gente, secondo me deve far riflettere. Questo è indubbio. È quello che dico, no? Sono le due squadre, secondo il mio punto di vista, Gigi, che hanno un ritmo, per esempio il Napoli ha un ritmo straordinario. Sì. Poi con l'acquisto di Cavani, un giocatore che sì. Ha qualità, ha profondità, ha tiro, c'ha tutto. Certo. E la Lazio c'ha questo Hernandez, mi sembra, che è molto bravo. Peccato che a Napoli, il Napoli è riuscito a portare sì. Diciamo, tanta gente alla, al di là che il ritmo del Napoli è impressionante come gioco, sì, devo dirti la verità. Un po' meno la Lazio, ma la Lazio ha anche lei dei giocatori di qualità. Sì. E secondo me, ecco, sono le due squadre che in questo momento, insieme al Milan, sono quelle squadre che a me piacciono di più. Senti Walter, tu sei con tutta evidenza un allenatore in attesa di ripanchina, no? Sì. E come è un'attesa come? Cioè la vivi in maniera serena o la vivi in maniera fremente? No, molto serena, perché d'altronde fa parte di un percorso della nostra vita. Io non ho mai avuto questo percorso nella mia vita. Però devo dirti, Gigi, che quest'anno i presidenti sono tutti dei Babbi Natali, non mandano via nessuno. Scusami la battuta. Sapevo che ci arrivavi, sapevo. No, ma perché è normale, cioè i primi tempi l'attesa è serena, è per questo che ti ho chiesto se stava diventando un po' fremente, no? Perché... Esatto, devo dire però serena, è chiaro che fa parte di questo percorso, no? Che io non ho mai trovato. Io però ho la fortuna di avere una grande famiglia, mi dedico un po' a lezioni di inglese, vado a vedere i miei colleghi, certo. Che in Inghilterra, che in Italia, così mi tengo impegnato in questa maniera. Insomma. Senti, prego. No, questi viaggi di studio, questi aggiornamenti che voi fate, no, in questi periodi, sì, ma come è giusto fare? Per esempio, negli ultimi tempi, che cosa ti hanno dato di interessante? Che spunti hai trovato in qualche posto? Allora, in Inghilterra gli spunti migliori che ho trovato, una professionalità, un lavoro sul ritmo che onestamente... anche il preparatore atletico dobbiamo un attimino rivedere alcune cose, ecco, io non vorrei offendere nessuno, però devo dire che in Inghilterra ho trovato un lavoro diverso dal nostro. Sì. In Italia con Del Neri, tanti colleghi, tra l'altro siamo amici, la novità che ho trovato ecco, il Mourinho l'anno scorso, insomma. Sì. Che si lavorava con grande qualità, con intensità sul pallone, eccetera, eccetera. E questa è la qualità che io ho trovato, ecco, a livello tattico, normale, insomma. In Inghilterra, per esempio, il fattore tattico non gli danno molta importanza. Non è così rilevante no, come da noi. No, assolutamente, certo. Assolutamente. Certo. E in Italia lo è un po' di più, ecco, quello che ho trovato in Inghilterra che c'è un lavoro molto diverso sull'intensità, sul pallone, sul possesso di palle, eccetera, eccetera. Certo. Che in Italia si guarda un po' più agli 11 contro 0, ancora non so se tu ti ricordi ai tempi di Sacchi, certo. Si faceva molto 11 contro 0, che tra l'altro è importante all'inizio del campionato, ma sì. non durante il campionato. Ma non durante la stagione, poi. No, assolutamente. Senti, allora, in attesa che ai presidenti torni nei periodi in cui la pazienza la perdono, no? Esatto, mi pare che tu l'aggiornamento lo stai completando. Sì. La serenità non l'hai persa, e quindi cosa vuoi? Il 2011 prima o poi un ritorno te lo offre, secondo me. Sì, ma io lo spero, dai. Certo. Onestamente deve essere un 2011 pieno di di successi a tutti di noi, insomma, a tutte le persone. Tu lo speri e io te lo auguro di cuore, Walter. Volevo spendere una parolina a Enzo Berzotto, se mi permetti. Come no? Come scusami, no? Gigi, ci tengo anch'io a dire una parola. Devo dirgli grazie perché ho avuto la fortuna di averlo come allenatore in nazionale. Mi ha fatto esordire, lo ricordo con grande affetto, cuore, insomma. Ti voglio bene, insomma. Beh, questa è una magnifica cosa di cui ti ringrazio in maniera particolare. Perché ci tenevo, perché è una persona, è un allenatore, era un selezionatore, era una grande persona, ecco, questo ci tengo a dirlo. Grazie Walter. Grazie a te Gigi. Grazie in modo particolare. Grazie, grazie. A presto. A presto. Ciao Walter. Torniamo sulle strade, strade e autostrade. L'appuntamento di oggi si conclude con una serie di buone letture. Erano previste per i giorni di vigilia del Natale, ma la scomparsa di Berzotto ha disposto diversamente e ha travolto i programmi di quei giorni. Così, da consigli per Babbo Natale, questi libri sono diventati suggerimenti per la Befana. Ora comincerei da Donne, Vodka e Gulag. Edward Streltsov, Il campione, è scritto da Marco Iaria, un giornalista della Gazzetta dello Sport, calabrese, classe 1978, edito da Limina, 19,90 euro. Ora, immagino che la straenorme maggioranza di voi ignori chi sia stato Streltsov. Se vi può consolare, lo ignoravo anch'io fino alla lettura di questo libro, che mi ha molto coinvolto. Perché? Perché negli anni 50 Streltsov era una stella della Torpedo Mosca e della Nazionale Sovietica, una stella vera, era un chi l'ha visto giocare, ma soprattutto il suo palmarès raccontano che era un vero fuoriclasse. Ma un ragazzo con un ciuffo alla Teddy Boy, uno spirito ribelle, un biondino, vodka, vita notturna, eccetera. Questo classico bel giovine che in un regime comunista come quello di allora qualche problema poteva anche averlo. Cosa succede? Succede che a 20 anni, alla vigilia della Coppa del Mondo di Svezia, quando la nazionale, ma anche i tifosi, il pubblico della nazionale si aspettavano da lui che diventasse la stella del mondiale, che poi invece fu Pelé, si trovò alle prese con un'accusa di violenza sessuale e il partito, o comunque il mondo politico di pietra della Mosca di quei tempi, lo mise di fronte a un'alternativa: o proclamarsi colpevole, come gli era stato promesso dalle autorità, oppure provare a dichiararsi innocente. Sullo sfondo c'era forse la vendetta di una donna potente che era membro del Politburo, insomma un giallo in piena regola, che ha per sfondo, per l'appunto, il rapporto molto controverso di quegli anni in Unione Sovietica tra sport e comunismo, tra sport e regime. In ogni caso, una carriera spezzata per il talento più grande della storia del calcio russo, capace di segnare 25 gol in 38 partite con la maglia dell'Unione Sovietica, ma capace anche, dopo il processo, dopo i pestaggi della polizia segreta, dopo le macchinazioni della propaganda, dopo 5 anni in un gulag, 5 anni in Siberia, ed essere sopravvissuto a stento, tornò giocando a calcio, lentamente risalì la china fino a un ritorno in campo clamoroso che guidò addirittura la Torpedo di Mosca al titolo nazionale. Quindi una delle più grandi imprese sportive, perché riuscirci dopo quel che aveva passato significa che veramente questo avrebbe potuto essere uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Non lo è stato, è una storia sconosciuta o semi sconosciuta che Marco Iaria ha pubblicato per Limina, e questo è uno. Un altro è, sempre per quei giorni di Natale che diventano i giorni della Befana, è Emiliano Guanella, che è un nostro collaboratore, tra l'altro anche di Radio 24, che ha scritto 50 volte Diego. 50 volte Diego è il suo primo libro, tra l'altro, a differenza del precedente, non ha un editore, ma ha una pubblicazione, come dire, volontaria, nel senso che questo libro è acquistabile su un sito che è www.ilmiolibro.it e da lì poi la coppia cartacea arriva a casa in circa 4 giorni. Emiliano Guanella lo ha pubblicato a sue spese, è una storia dedicata a Diego Maradona e dedicata ai 10 anni, gli ultimi 10 anni della sua carriera, che Guanella sta trascorrendo in Sud America, in Argentina in particolare, da dove racconta storie di varie umanità, ma storie di ogni genere, cronache di sport, di costumi, di società, ma anche di politiche e di attualità. E in questa opera in particolare ci sono una serie di testimonianze sue su come Maradona è vissuto attualmente in America e comunque sulle tante morti e resurrezioni che Maradona ha attraversato soltanto in questi 10 anni, quindi immaginatevi quante sono calcolando anche i precedenti. Poi c'è edita da Carta e Penna Editore, si chiama, un libriccino, in questo caso minuto, ma sono racconti gustosi e scritti in punta di penna da Maurizio Mattiuzza, che si chiama Il Derby della Luna, e sono, ripeto, piccoli racconti divertenti anche con un paio di poesie conclusive. E è un'altra lettura curiosa e interessante. E poi questa è una possibilità che sono lieto di offrirvi, di partecipare ad un concorso di scrittura, cioè ad un concorso per pubblicare dei libri. Allora, come andate? È andata che una casa editrice dal nome molto, ma molto singolare, e nel dubbio di pronunciarlo male, visto che poi questo sarà anche l'indirizzo mail a cui dovrete scrivere, allora la casa editrice si chiama 66, e fin lì non è difficile perché sono due numeri 66. Poi io vi leggo, vi faccio lo spelling, e quindi la T di Torino, la H di Hotel, la A di A, che non è difficile, il numero 2, la N di Novara e la D di Domodossola. Questo è l'indirizzo a cui dovete scrivere per ulteriori informazioni, ma io intanto comincio a darvi un bel po' di coordinate. Allora, l'iniziativa è per premiare, è un concorso aperto a testi di narrativa nei quali lo sport sia o lo spunto o il sottofondo, ma a patto che ci sia anche il concetto di storia dell'unità d'Italia, perché è un concorso pensato in funzione anche del 150enario dell'unità d'Italia, che da qualche giorno avremmo dovuto cominciare a festeggiare. Il termine ultimo per la consegna dei manoscritti è il 31 gennaio, e quindi non avete più molto tempo, purtroppo, ma insomma io dell'iniziativa sono venuto a conoscenza soltanto in questi giorni. Il presidente della giuria è un garante assoluto, visto che si tratta di una firma illustre come quella di Gabriele Romagnoli, ed è questa un'iniziativa che fa parte delle celebrazioni ufficiali per i 150 anni dell'Unità d'Italia promosse dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Qualche suggerimento in più? Beh, intanto, per chiarimenti e informazioni, scrivete all'indirizzo mail che vi ho dato, l'indirizzo di prima, preceduto da info ovviamente, chiocciola, e seguito dal punto com, indicando come oggetto in attesa l'unità d'Italia. Prime coordinate: concorso aperto ad autori e autrici di qualsiasi nazionalità che abbiano almeno 18 anni compiuti nel 2010. I partecipanti non devono mai aver pubblicato sino ad ora un romanzo, intendendosi per tale un'opera di narrativa di almeno 108.000 battute. Il concorso è aperto a romanzi brevi inediti scritti in lingua italiana, opere che devono essere come minimo di 108.000 battute e di massimo di 180.000 battute spazi inclusi. Non vi sono limiti all'ambientazione delle opere, né di carattere temporale, né storico, né geografico. Può essere scelto qualunque sport, e il genere di riferimento allo sport e all'unità d'Italia è interamente lasciato alla fantasia degli autori, delle autrici e degli autori. Mi sembra comunque un'occasione che qualcuno di voi potrebbe anche cogliere. Chi ha l'idea, lo spunto, il sogno, il piccolo manoscritto, l'abbozzo, quello che volete nel cassetto, ci può provare. Credo che alla fine, se non ricordo, c'è anche un montepremi. Vediamo se lo trovo velocemente. Il vincitore o i vincitori accettano che le loro opere, beh, queste sono le condizioni finali, possono essere soggette a editing da parte della casa editrice, e il vincitore o i due vincitori, in caso di exequo, finalizzeranno in buona fede i contratti di edizione, fermo restando che questi prevederanno un anticipo royalty a fondo perduto di 1.000 euro ciascuno. Siamo arrivati alla fine anche della puntata di oggi. Questi non erano consigli per gli acquisti, sia ben chiaro, erano consigli per la scrittura, che sono leggermente diversi. Dunque, grazie anche oggi a Franco Piantanida in redazione, a Valeria Bernardi in regia. Appuntamento a domani.